edizione. Le 6, 14 minuti e 25 secondi, qualche altro aggiornamento che arriva dalla notte. Sono uscite delle trascrizioni delle riunioni della Banca Centrale Americana per il 2006, quando i prezzi delle case hanno iniziato a calare, la fase che è preceduto immediatamente la crisi dei mutui subprime. Allora, pare che il rallentamento del mercato immobiliare, da quel che emerge da queste riunioni, preoccupò la Fed, ma nessuno dei governatori considerò la possibilità che questo potesse causare una crisi finanziaria, quindi scarsa capacità predittiva. Sempre dagli Stati Uniti, ritireranno circa 7.000 degli 81.000 militari americani di stanza in Europa. Questo nel quadro di una nuova strategia di difesa e delle nuove misure di austerità che hanno colpito il bilancio del Pentagono. Lo ha annunciato il segretario alla difesa, Leon Panetta. Queste le due notizie che sono arrivate nella notte dagli Stati Uniti. Ci fermiamo un attimo per la viabilità, ci ritroviamo subito dopo per una breve occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Le 6, 16 minuti e 48 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Dunque andiamo a vedere che cosa troviamo sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, o almeno dei principali. Iniziamo dal Corriere della Sera, dove l'apertura vera e propria, quella che tecnicamente si chiama l'apertura, ossia quel che si trova sul lato sinistro del giornale, è dedicata ai referendum. Bocciati i referendum, il colle rivedere la legge, Di Pietro parla di regime e ira di Napolitano, un commento a firma di Michele Ainis, ora cambiatela e in fretta. Ma i due titoli che più attirano l'attenzione, quelli al centro della pagina, i titoli forti, riguardano innanzitutto la vicenda di Milano, che troviamo proprio sopra. Milano, il vigile ferma un SUV ma viene travolto e ucciso, investito durante un controllo e trascinato per 300 metri nella notte, caccia al colpevole. Questa la storia, un commento di Paolo Di Stefano, l'orrore della violenza e l'eroismo del dovere. Tra poco, vi ricordo ancora, ospiteremo l'assessore alla sicurezza del comune di Milano per parlare di questo, ma anche di altre vicende parallele che hanno riguardato la città, il capoluogo lombardo. Il titolo forte di centropagina però è Cosentino, salvo Lega nel caos, negato con 309 voti, 298 a favore l'arresto del deputato, protesta la base del Carroccio. Berlusconi soddisfatto, PDL in festa, alta tensione Bossi Maroni. Il Cavaliere che dice, una sorta di retroscena, il Cavaliere che dice Umberto, il rapporto regge ancora, commento di Giovanni Bianconi sotto il titoletto Politica e Giustizia, la testatina Politica e Giustizia, il sotterraneo mercato delle indulgenze. Interessante, il Corriere della Sera naturalmente dedica anche una apertura, un titolo alle questioni finanziarie, dimezzati tassi sui bot, spread sotto i 500 punti, e qualche dettaglio sull'idea di liberalizzazioni che si sta facendo strada nell'esecutivo. Come si diceva oggi, c'è il primo esame da parte del governo delle liberalizzazioni, del decreto liberalizzazioni, servizi postali più liberi e spiagge all'asta, e poi tetto alle tariffe autostradali e iter veloce per i risarcimenti RC Auto. Interessante appunto anche un Gian Antonio Stella che firma un Bolzano, il vice di Durnwalder, che è il presidente della provincia, lo ricordiamo, il suo vice prende più di Sarkozy. E questo è il Corriere della Sera. Il Sole 24 Ore dedica naturalmente l'apertura all'ottima giornata dei mercati di ieri, anche questa la commenteremo più avanti, tra poco. Tassi bot dimezzati, scende lo spread, il Fondo Monetario promuove la manovra Monti, Draghi subito il nuovo trattato europeo. I commenti sono a firma di Luigi Guiso, che si intitola Un segnale da non sprecare. E Alessandro Plateotti, la leadership fa la differenza. Dedicato alle liberalizzazioni c'è il titolo di centropagina, liberalizzazioni il no delle categorie, da Milano a Napoli blocco dei taxi ma per il garante scioperi illegittimi, il governo va avanti sulla bozza, proteste da petroliere e farmacie, sindacati, stop sull'articolo 18. E poi c'è il dettaglio delle misure, taxi, aumento delle licenze con compensazione, ferrovie, andranno in gara i servizi pendolari, commercio, solo autocertificazione per aprire un negozio, consumatori, ampliato il diritto alla class action, banche e assicurazioni, in bilico le norme su polizze e bancomat e autostrade, chiunque potrà aprire un'area di servizio. E poi c'è un titolo di Finanza che riguarda la vicenda del gruppo Ligresti. Ieri c'è stato un vertice decisivo nella sede di Unicredit, sì a Unipol Fonsai, nasce il maxi polo delle assicurazioni, accordo raggiunto, Ligresti dunque pronto all'uscita. Questo è il quadro per quanto riguarda il Sole 24 Ore. Vi segnaliamo anche che c'è un'indagine conoscitiva della Procura di Roma sulla casa al Colosseo del ministro Patroni Griffi, un tema del quale si tornerà a parlare sicuramente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Allora, il titolo della Repubblica, l'apertura della Repubblica è dedicata ai referendum. No ai referendum, ora la riforma. Delusione dei promotori, Di Pietro attacca il Quirinale e il regime, solo Berlusconi e Bossi difendono il Porcellum. Il sommario è la consulta boccia ai quesiti, Napolitano subito una nuova legge elettorale. Il titolo del commento di prima pagina firmato da Massimo Giannini è la frustrazione e la democrazia. Allora, titolo forte dedicato anche inquadrato in una sorta di box per quanto riguarda la vicenda di Cosentino. La Lega si spacca, Maroni, voglio il congresso, i radicali votano con il PDL, schiaffo ai PM, questo è il titolo, la Camera salva Cosentino. E il commento è firmato, come forse era prevedibile in una vicenda di questo tipo, il commento è firmato da Roberto Saviano. E il titolo è Il patto scellerato. Troviamo anche dettagli di storie dall'estero, a partire dalla questione della quale già vi accennavamo ieri nel corso di questa breve rassegna stampa, riportandovi uno dei primi quotidiani che aveva dato la notizia, quantomeno online, che era il Guardian, ed era l'oltraggio finale dei soldati americani ai Taliban uccisi. Oggi il pezzo lo firma Vittorio Zucconi, si parla naturalmente della vicenda che vi avevamo raccontato, di queste immagini che sono circolate su internet, ovviamente tutta da verificare, con i soldati americani che urinano sui corpi dei talebani uccisi. Titolo anche su questioni finanziarie per Repubblica, i bot vanno a ruba e cade lo spread. E un Federico Rampini firma un pezzo in aereo con Romney, ossia come sapete, il candidato alle primarie repubblicane. Salverò l'America, parla il candidato forte, la Casa Bianca istiga alla lotta di classe. Andiamo a vedere la stampa. La stampa sceglie anche la stampa di aprire sulla consulta che boccia il referendum, inammissibile, va cambiata la legge, Napolitano ora tocca al Parlamento, due no dai giudici costituzionali sui quesiti elettorali, Di Pietro un favore al Colle, la replica è volgare insinuazione. Luigi La Spina firma un commento che si intitola Chiusi nel bunker e Ugo De Siervo un altro che si intitola Senza alternative. C'è una foto particolarmente significativa che è quella di a centropagina, quella di Alfonso Papa che bacia Nicola Cosentino dopo il voto in aula. La Camera nega l'arresto del deputato PDL, il carroccio si spacca, la Lega salva Cosentino. Titolo del commento di Mattia Feltri, Padania del Sud, e di Amedeo La Mattina, patto per le elezioni. Ci sono anche titoli dedicati alla vicenda del vigile, della quale vi racconteremo e della quale parleremo più avanti, alla vicenda dell'Afghanistan e delle nuove immagini che riguardano i soldati americani, e poi sulla vicenda Ligresti, via Ligresti, Unipol su Premafin e Roma 2020, ne accennavamo poco fa nel GR Sport. La frenata del governo, presentato a Monti lo studio di fattibilità, il ministro Gnudi, un punto di spread vale 3 Olimpiadi. E poi un titolo su Pato, anche di questo parleremo tra poco. Niente Parigi, Pato resta al Milan. Il Messaggero, il titolo del Messaggero, l'apertura è rivedere la legge elettorale, la consulta boccia il referendum, Napolitano ora modifiche urgenti, la casa di Patroni Griffi al Colosseo, la procura apre un'inchiesta, anche qua foto di Cosentino salvato dall'aula della Camera dall'arresto, e un commento, la foto è di questo festeggiamento che c'è stato per Cosentino quando è arrivato il voto, il titolo e il commento di Stefano Cappellini è spudorati abbracci. Centro pagina, bot promossi, giù lo spread, l'asta fa il pieno, crollano i rendimenti dei titoli a Piazza Affari più 2%, e una fotonotizia dedicata allo sciopero selvaggio dei taxi a Roma. E poi è interessante questa vicenda, appunto, che ci arriva da Roma. Shoah, divelte tre pietre d'inciampo, oltraggio alla memoria della Shoah, le tre pietre d'inciampo, le sorelle Letizia, Elvira e Graziella Spizzichino sono state divelte. Cosa sono le pietre d'inciampo? Sono San Pietrini con incise in ottone le date di nascita, deportazione e morte delle vittime dell'Olocausto, e posizionati sotto la casa dove le Spizzichino avevano vissuto. Diamo un'occhiata rapida a che cosa possiamo trovare anche sui quotidiani esteri. Iniziamo dal Financial Times, che naturalmente dedica la sua apertura alla conferenza stampa di ieri del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che saluta i tentativi di stabilizzazione. E però troviamo anche una storia interessante che riguarda Barack Obama, perché la sua campagna per le presidenziali, per le prossime presidenziali, ha raccolto a quanto pare 42 milioni di dollari nel quarto trimestre dell'anno, e i democratici a loro volta hanno raccolto 24 milioni di dollari per i candidati del congresso. Dedica il New York Times molto alle tensioni che stanno attraversando i rapporti, le rinnovate tensioni che stanno attraversando i rapporti tra Iran e Stati Uniti. L'amministrazione americana ha detto al supremo leader iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei, che se l'Iran chiudesse lo stretto di Hormuz sarebbe una linea rossa che provocherebbe una risposta, così dice una fonte ufficiale americana. Vi parlavamo ieri della vicenda degli agenti dell'MI6, insomma degli agenti inglesi, in merito a torture di prigionieri rapiti. Ebbene, da quel che si è appreso non ci sono abbastanza prove per perseguire gli agenti riguardo a casi che riguardano il Pakistan e l'Afghanistan, ma ce ne sono per quanto riguarda, lo ricorderete, se ne è parlato nei mesi scorsi, dissidenti libici rapiti e torturati da agenti del servizio segreto britannico. Prima edizione. 6:34 minuti e 40 secondi, è il momento d'Italia in controluce. Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. La tragicommedia che sta inquinando Reggio Calabria e Roma si arricchisce di una nuova puntata. L'ex collaboratore di giustizia Antonio Di Dieco è, sarebbe... Allora, come sentite, c'è stato un piccolo problema, c'è un file sbagliato, adesso che era naturalmente sotto tiro di Roberto Galullo, adesso siamo pronti a partire... È venerdì, che ci volete fare? Siamo pronti a partire con Italia in controluce. Italia in controluce. È il 16 gennaio e vi parla Daniele Biacchesi. Oggi parliamo della mancanza di dottori negli ospedali italiani. Reportage di Francesco Maesano. In Italia mancano i dottori. La pletora di medici uscita dall'università a partire dalla fine degli anni 60 adesso sta andando in pensione e mancano coloro che andranno a sostituirli. Da Nuoro a Salerno, da Bari a Messina, negli ultimi mesi è un susseguirsi di denunce della mancanza di personale medico negli ospedali, cosa che produce tra l'altro studi di medicina di base sempre più intasati. Il ministro della Salute Renato Balduzzi, appena insediato, si è emanato un decreto che consente alle università di aumentare fino al 10% il numero dei posti messi a disposizione per coloro che intendono immatricolarsi nelle facoltà di medicina e chirurgia. Per commentare gli effetti che il decreto avrà sul sistema sanitario nazionale, abbiamo parlato con il neopresidente dell'Ordine dei Medici di Verona, Roberto Mora, che a metà dicembre ha lanciato un appello sulla carenza di personale medico e di posti letto negli ospedali. Siamo in un periodo in cui le risorse sanitarie si stanno contraendo e soprattutto quelle che sono disponibili per gli ospedali. Di conseguenza la strategia che è delineata dalla regione è quella di ridurre il più possibile i posti letto per riservare solamente le patologie che devono necessariamente essere gestite in ospedale e di spostare invece le patologie che possono essere trattate sul territorio stesso. Ma così non si rischia di aggravare ancora il carico sui medici di famiglia? Medici di famiglia attualmente inseriti ci sono, ci saranno forse delle criticità nei prossimi anni perché è previsto che un grosso numero di medici di famiglia andrà in pensione nei prossimi anni. Questo perché i medici di famiglia attualmente in servizio sono quelli che sono arrivati negli anni del boom dell'iscrizione a medicina e le previsioni sono quelle che nei prossimi 7-8 anni la quantità di medici che andrà in pensione sarà superiore a quella dei medici che verranno inseriti e quindi si dovrà un attimino rivedere quello che è il rapporto di inserimento del medico che attualmente è di un medico ogni 1000 abitanti. Il rischio è quello di non avere abbastanza medici, e di fare la fine che poi ha fatto l'Inghilterra, dove il fabbisogno dei medici è stato sottostimato e attualmente in quel paese stanno cercando medici arruolandoli da altri paesi europei. Era il reportage di Francesco Maesano su Italia in controluce. Torniamo oggi 13:30, Radio 24. Le 6:39 minuti, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia e adesso parliamo di un caso calcistico, quello di Alexander Pato. Dario Ceccarelli, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Dunque, dice no al Paris Saint-Germain, salta l'affare Tevez, che cosa sta succedendo? Sta giocando una lotta tutta interna? Eh sì, è veramente una vicenda a tutto campo, come vabbè, per usare un termine abusato, nel senso che ci sono tanti aspetti da prendere in considerazione. Innanzitutto l'intervento di Berlusconi, presidente senza poltrona, ma che ha avuto un effetto devastante, nel senso che ha bloccato questa trattativa che ormai era arrivata perché Galliani aveva già annunciato che Pato stava andando al Paris Saint-Germain. Cos'è successo? Ma Berlusconi non c'entrano le questioni, diciamo, del genero Pat, che sappiamo che è fidanzato con Lady Barbara, no? La realtà sarebbe che Berlusconi avrebbe considerato poco economico il passaggio di Pato al Paris Saint-Germain per avere poi Tevez dalla Manchester City, perché in realtà, infatti, mentre Pato viene a costare più o meno 28 più 7 milioni, Tevez 23 più 3, alla fine, siccome, diciamo la verità, Pato è giovane, ha un grande futuro davanti, è amatissimo dai tifosi, insomma, per tutte queste considerazioni Berlusconi ha detto no, blocchiamo tutto. Solo che questo ha delle ripercussioni enormi, perché intanto c'è il derby domenica, sì. E quindi ci si ritrova un Milan con Galliani spiazzato, Allegri che non ama molto Pato, che se lo ritrova improvvisamente in campo, e quindi anche questo è come delegittimare. Anche perché il Cavaliere ha una passione per fare le formazioni, esatto, e quindi c'è tutto un conflitto, un doppio conflitto, nel senso che c'è questa tensione con Galliani e Allegri, c'è il fatto poi che comunque Pato è legato alla figlia di Berlusconi, anche questo crea una ricaduta, anche se sembra che la ragazza si sia tenuta assolutamente al di fuori, anzi pare che tutto sommato l'idea di andare a Parigi e togliersi dai riflettori non le dispiace, non le dispiacerebbe nemmeno, okay. Grazie al nostro Dario Ceccarelli, che lasciamo al lavoro dei giornali radio. Noi cambiamo argomento e parliamo di mercati. Ieri, come sapete, delle aste di titoli di Stato importanti, perché i rendimenti sono scesi al 2,73% per i titoli annuali, e il rendimento, differenziale di rendimento con il Bund tedesco si è abbassato a 479 punti, quindi in calo lo spread. Salutiamo, spesso ci accompagna in queste mattine, abbiamo poco tempo oggi con lui, però magari qualche indicazione di massima riesce a darcela. Luca Bagato, amministratore unico di Macro Markets SRL, esperto di mercati obbligazionari, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, che segnale è arrivato, che segnale ci è arrivato ieri? Ma in realtà sono stati tre segnali, secondo me. Il primo è politico, è sicuramente un riconoscimento del lavoro del governo Monti da parte del governo tedesco prima e del governo francese dopo. Effettivamente l'Italia in questo momento a livello di credibilità è in una posizione migliore rispetto a quella in cui si trovava un mese fa. Sicuramente il progetto, diciamo, del nuovo governo tecnico comincia a dare i suoi frutti, le riforme vengono accettate, sicuramente le proiezioni del governo vengono ritenute credibili. Il secondo punto riguarda la Banca Centrale Europea, con la dichiarazione di Draghi che comunque questi 500 miliardi di pacchetto di aiuto alle banche sono serviti per stabilizzare il sistema, che il sistema si allontana di fatto da una voragine di rischio di credito, diciamo, veloce, un po' come quella che abbiamo verificato dopo la crisi di Lehman, e questo di altro sistema, anche se la Banca Centrale Europea non ha fatto niente sui tassi, e di fatto per molti analisti della stamattina non escludono un altro movimento nel corso dell'anno. E il terzo movimento sicuramente riguarda un po' la situazione di Unicredito, che si è stabilizzata, che ha colpito molto comunque di rimbalzo un po' i titoli di Stato italiani, e che in qualche modo aveva trascinato nel vortice di questo aumento di capitale della banca anche la situazione dei titoli di Stato. Per cui ci troviamo in questo momento con una posizione da inizio anno dove bene o male i titoli di 2 anni guadagnano all'incirca l'1%, i titoli di 10 anni dai minimi guadagnano circa il 3-4%, e questo è già un buon segnale, perché con la parte lunga che guadagna un po' di più rispetto alla parte breve sembrerebbe effettivamente cominciarsi a delineare un percorso di rientro dello spread più strutturale. Quindi più strutturale, dice lei, cioè si aspetta una riduzione dello spread per le prossime settimane abbastanza forte, dello spread naturalmente e del rendimento dei titoli di Stato. Sì, è vero, perché siamo sicuri su una posizione importante, cioè la rottura di 6,50 darebbe il segnale effettivamente per il rendimento dei 10 anni di un rientro strutturale, probabilmente non avverrà subito, quindi bisogna avere un po' di pazienza, però il movimento fatto ieri, in realtà con questo aumento di credibilità nei confronti del governo italiano, ma soprattutto la buona asta spagnola, sembrerebbe delineare anche uno scenario in cui per la prima volta l'Europa, un po' dai poteri forti, quindi Germania e Francia, abbiano cavalcato l'onda un po' della rilassatezza delle dichiarazioni proprio prima di un'asta molto forte. Sembrerebbe delineare un 2012 all'insegna un po' della, se vogliamo, del supporto ogni volta che ci sono aste importanti anche da parte di tedeschi e francesi. Questo sarebbe un buon segnale per gli operatori. Grazie a Luca Bagato, amministratore unico di Macro Markets SRL, per essere stato con noi. E buona giornata e ci sentiremo naturalmente la prossima volta e speriamo sempre per commentare giornate come queste. Buona giornata, Bagato. Buona giornata. Prima edizione. Le 6:46 minuti e 2 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia e noi adesso ci occupiamo della vicenda che trovate un po' in prima pagina su tutti i quotidiani, in particolare naturalmente sul Corriere della Sera, che è il giornale di Milano per eccellenza, ed è questa terribile vicenda di cronaca, la vicenda di questo di questa persona alla guida di un SUV, una BMW X5, che ha investito un vigile urbano in un parcheggio nella zona della Bovisa, ha trascinato per 300 metri e questa persona, quest'uomo, Nicolò Savarino, di 42 anni, è rimasta uccisa. Io saluto Marco Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, riusciamo ad avere un po' di spazio questa mattina per parlare con lei, quindi oltre all'ovvio all'ovvio cordoglio che immagino, all'ovvio dolore per questa vicenda, io le chiedo questo e poi verremo al tema più generale, perché non è un caso isolato di violenza stradale negli ultimi mesi a Milano e quindi i segnali iniziano a essere un discreto numero. Poi parleremo di questo. Innanzitutto le vorrei chiedere se ha qualche dettaglio in più rispetto a ieri sera, dal lato della pura cronaca, ossia se si sa qualche dettaglio in più sulla persona, se è stato ricostruito come possa essere, se è un italiano, se è uno straniero, se le indagini sono a buon punto, le ricerche sono a buon punto. Guardi, io sono qui con la sede della polizia locale, con il comandante, con lo staff che sta indagando insieme con altre forze dell'ordine. Abbiamo alcuni elementi su cui stiamo lavorando da ieri sera, ma ad oggi, a questo momento, non abbiamo novità significative. Diciamo che si è appurato che alla guida di questo SUV c'erano due persone che non si sa ancora bene il motivo, ma hanno ad un certo punto, durante un controllo che questo vigile di quartiere con il suo collega stava facendo a un camper nel campeggio, un camper appartenente a una famiglia di sinti italiani, a un certo punto questa macchina, questo SUV, ha leggermente investito il capofamiglia. E poi quando la gente gli ha intimato di fermarsi, questo SUV ha accelerato e lo ha investito, trascinandolo poi appunto per circa 300 metri. E poi naturalmente è fuggito. Quindi questi sono i dettagli, insomma, voglio dire, non avete ricostruzioni, non siete riusciti a... Immagino che qualche testimone ci sia stato, no? Ci sono dei testimoni, devo dire che i cittadini stanno collaborando al massimo, ci stanno dando molte informazioni, stiamo controllando diversi veicoli che potrebbero in qualche modo corrispondere. Noi insieme con la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri stiamo controllando ampiamente il territorio per cercare di raccogliere gli indizi che ci portino all'individuazione delle due persone che hanno fatto questo efferato omicidio. Quindi ci conferma innanzitutto che le persone sono due, in sostanza. Sì. Dai riscontri, da più di una delle testimonianze, concordano su questo fatto. Okay. Anche sul percorso concordano, quindi su questo c'è certezza. Su questo c'è certezza. Allora, assessore, io adesso la voglio portare sui temi più generali. Come si diceva, non è l'unico episodio di violenza stradale negli ultimi mesi a Milano c'è, solo per fare un esempio, la vicenda della persona investita e uccisa sullo scooter, solamente per dirne una, ma voglio dire, abbiamo assistito a molte altre. Allora, che cosa succede, francamente? Cioè, glielo dico proprio, glielo chiedo veramente da politico e come percezione della città. Ma guardi, io non generalizzerei, anche perché qui probabilmente, ritengo, adesso bisogna vedere le indagini, ma non penso si tratti di un incidente stradale o un investimento dovuto a una lite di tipo stradale, come poteva essere in quei casi che lei citava. Qui probabilmente si tratta di una situazione legata a queste due persone che probabilmente nascondevano qualcosa di grosso e per questo hanno poi investito la persona. Quindi sospettate questo, sospettate che avessero a bordo evidentemente qualcosa per cui dovevano non farsi beccare. Esatto. Questo è evidente. Droga, si suppone? Non sappiamo ancora, ma la reazione è stata molto... è stata così decisa e così violenta e non era una questione di problematica stradale, tanto è vero che gli agenti stavano controllando un'altra persona, non questa. Chiarissimo. Quanti uomini state dislocando su questo, assessore? Noi abbiamo, devo dire, tutti gli uomini della polizia locale, moltissimi, anche nonostante non fossero in turno, stanno dando la massima assistenza. Stanno collaborando con le auto di servizio e con le proprie auto per controllare, sono tutti a disposizione da ieri sera. Molti di loro sono venuti in sede anche se erano in turno di riposo, perché chiaramente c'è la voglia di lavorare con la grande professionalità che hanno gli agenti della Polizia Locale di Milano per raggiungere il risultato. Questo è chiarissimo, assessore. Un'ultima domanda. Tra l'altro la zona non è esattamente non la considerate una zona a rischio criminalità, cioè là c'era un controllo di routine. Sì, questo è un parcheggio della stazione Bovisa, che è uno dei quartieri, diciamo, della periferia milanese, da un quartiere dove c'è anche la sede del Politecnico, un quartiere che è in questi ultimi anni migliorato, è cresciuto con la sede nuova del Politecnico. Devo dire che tra l'altro il controllo era un normale controllo appunto di questo campo su segnalazione dei cittadini, la gente che purtroppo è deceduto è un vigile di quartiere, quindi un vigile che lavorava nella prossimità, nei normali controlli, con una bicicletta, quindi si tratta proprio di una situazione come purtroppo le nostre città, le grandi città sono a rischio, esiste purtroppo la delinquenza organizzata, esistono queste persone ed è sempre più necessario un controllo del territorio e in questo caso devo dire appunto purtroppo però i vigili dimostrano di essere presenti sul territorio e nei loro controlli di individuare appunto anche persone che praticano attività illegali, che probabilmente a questo è dovuto la reazione. Su questo devo dire anche una grande capacità di collaborazione della polizia locale con le altre forze dell'ordine, questo è un altro segnale importante, perché nelle città, nelle aree urbane è importantissimo che ci sia una collaborazione tra tutte le forze dell'ordine, questo è il modo per essere vicini ai cittadini. Grazie dunque a Marco Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, per essere stato con noi. Volevamo ringraziarlo anche per essersi svegliato, ma abbiamo capito che forse non ha passato una notte esattamente non sono andato a dormire, sono qua vicino al comandante e a tutti gli uomini della polizia locale, perché chi governa deve stare insieme a tutti coloro che aiutano i cittadini. Speriamo che venga trovato presto l'assassino del vigile di Milano. Alle 6:54 minuti e 50 secondi termina prima edizione. Un ringraziamento a Viola Bottori in redazione e Peter Bescapè in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto, come sempre da Simone Spezia. Ci sentiamo lunedì, 2 minuti o un minuto prima delle 6:00.